Ondivago vi offre una doccia di vocali e consonanti. Ondivago, su Radio Alma Bruxelles, è sbarcato al Salone del Libro di Torino, dove sta raccogliendo voci e tendenze dell'editoria italiana. In questo numero vuole analizzare la situazione del libro in Italia. Davanti alla marea dei libri del Salone, ospitato al Lingotto di Torino, viene da chiedersi come sia strutturata l'Italia del libro. Secondo dati dell'editrice bibliografica del 2009, gli editori italiani sono 9.676, di cui 139 in Svizzera, 13 in Vaticano e 12 a San Marino. Le librerie principali ammontano a 2.100 e i titoli in commercio sono esattamente 546.069. Il fatturato del 2008 ammonta a 2.702 milioni di euro, a prezzi di copertina. Le vendite via internet, tutto sommato, sono basse, 4% del fatturato totale, anche se in crescita. Anche gli addetti del settore librario non sono moltissimi, 8.000 come personale interno e 5.000 impegnati nella distribuzione. Sono invece abbastanza gli esterni censiti, 16.000 secondo le stime, che sicuramente sono di più se si contano tutti coloro che gravitano attorno al pianeta libro, quindi correttori di bozze, illustratori, stagisti, che si trovano in condizioni economiche più che discutibili. Il quadro è presto fatto. Gli editori abbondano, spinti da un pullulare di autori, spesso con poche centinaia di copie stampate e nessuna distribuzione. I lettori sono un numero largamente inferiore ad altri paesi occidentali e le politiche per la diffusione del libro non hanno avuto sviluppo. Il recente provvedimento, poi, che ha eliminato la tariffa ridotta per le spedizioni dei libri, sta schiacciando il sistema. Ondivago in questo numero vuole parlare anche del rapporto dei libri con i mezzi di comunicazione, quindi TV e carta stampata. Lo facciamo con Cristian Mascheroni, che conduce il programma TV Ti racconto un libro su Iris, ed è anche scrittore. Passiamo poi ad Andrea Marrone, che ha una rubrica di libri sul tabloid italiano Vero. Ecco quindi Cristian Mascheroni, che presenta il suo programma TV e il suo libro. L'esperienza del libro nella TV italiana, da quello che io so, è abbastanza rara e tormentata, nel senso che a parte la TV pubblica, e a tarda sera, insomma, non c'è molto. No, sono veramente degli angoli assolutamente risicatissimi e molti, i pochi ci sono a volte sono proprio promozionali, nel senso che sia, non so, l'angolo di Fazio piuttosto che sì, che è il Can quando presenta i suoi scrittori, cioè sono molto molto inquadrati nei confronti del prodotto libro e molto incentrati sulle grandi case di distribuzione editrici. Per cui è difficile trovare in effetti un programma dedicato veramente, a parte poi scrittori per un anno che poi andava insomma in tardi, veniva proposto molto tardi sulla TV pubblica. La TV privata mi pare che abbia tentato qui e là, quando c'era ancora la TV tradizionale, di inserire degli spazi che poi non hanno retto, comunque che hanno avuto così delle discussioni. Per questo il tuo programma mi pareva molto interessante, anche una novità nel panorama. Sì, diciamo che fortunatamente ora sul digitale terrestre si è creato questo spazio che all'inizio in realtà era proprio nato come una rubrica quotidiana, settimanale, sì, di un quarto d'ora, e poi fortunatamente ci è andato, diciamo, un po' più di libertà e abbiamo creato un programma che adesso c'è dal secondo anno, settimanale, dove guardiamo a 360 gradi appunto il mondo della letteratura italiana e internazionale, cercando di dare molto molto spazio a quello che diciamo noi l'umanità dietro i libri, cioè meno promozione del libro, ma chi lo scrive, ma tanti ritratti, sapere, far conoscere chi sono questi scrittori, far vedere che hanno anche una loro vita, che si dice, cioè, che si divertono, che non sono tutti con la gobba in biblioteca o in libreria a scrivere come dei matti, ma sono persone che comunque vivono, e poi facendo vedere tantissimi eventi, cercando di dare anche sottolineando anche la presenza della letteratura indipendente, le piccole case editrici, gli esordienti, i giovani, cioè proprio cercando di vedere tutto quello che in televisione non si è mai visto sul mondo. Sì, tentando di svecchiare l'ambiente letterario che esatto, esatto. Noi creiamo poi dei montaggi sempre con anche con musiche attuali, pop rock, poi diamo tantissimo spazio, come dicevo prima, ai giovani, a eventi comunque un po' diversi dal solito, cercando appunto di vedere a 360 gradi tutto il panorama. Tutto è impossibile, però abbiamo dato veramente voci diverse, cioè poi anche case editrici molto qualificate, ma che naturalmente sono schiacciate dal mercato e non sembrano esistere. Ti faccio un paio di domande di natura così indagatrice, nel senso, ti racconto un libro, che è il programma di cui tu sei anche autore. È un programma che va in onda su delle reti legate a Mediaset, se non sbaglio. Sì, è praticamente il canale digitale del Digital Terrestre, che è Iris. Esattamente. Iris è il canale di Mediaset che si occupa soprattutto di cultura, di film di un certo tipo di qualità. È un po' un canale che cerca di riproporre il bello, il prodotto di qualità, una tribù giornalista, diciamo. E diciamo che sul tuo programma hai delle linee guida o hai completa libertà da parte della produzione, della direzione del canale? Allora, c'è una libertà di espressione, una libertà di ricerca e di contatti. Io e la mia collega Marta Perego, che siamo appassionatissimi di letteratura, poi io stesso scrivo libri, abbiamo avuto proprio carta bianca per ricercare gli eventi, gli autori, eccetera. Come linea guida in realtà ce ne siamo dati man mano insieme alla produzione, cioè quella di magari veicolare, avere delle puntate con una loro linea editoriale e soprattutto una certa conformità anche dei servizi, per cui abbiamo sempre un'intervista fatta in un certo modo, per poi creiamo anche i nostri stili, poi abbiamo sempre un evento, abbiamo ad esempio, ci sono rubriche che vanno a esplorare anche altri campi come il cinema, come i libri nel sì cinema. Però non sono, diciamo, delle forme che vi limitano, insomma, sono puramente a livello di estetico, insomma, è un fatto, sì, vostro. Benissimo, quindi anche una, che tipo di risposta avete, nel senso, voi avete un audience, avete calcolato già un audience sul vostro programma, avete dei riscontri su un certo tipo di fasce di pubblico? Allora, sto facendo appunto dopo un anno e passo, quasi due anni di programma, appunto dei calcoli, tra virgolette. Sì. Noi non abbiamo una vera e propria audience, essendo il digitale comunque qualcosa di ancora nuovo, sì, in crescita. Però ad esempio è un programma che ha superato di gran lunga ad esempio la media di rete, ed è stato questo un risultato eccezionale, perché appunto programma di libri che comunque ha l'audience quasi più alta della rete, che promuove comunque film eccetera eccetera, vuol dire che la gente non è così disinteressata. Il punto lo abbiamo su chi ci scrive e attraverso anche il blog, noi siamo, cioè il web, noi abbiamo il gruppo su Facebook, io e Marta scriviamo a tutti i nostri telespettatori e ci arrivano ogni giorno sempre più email, sempre più soprattutto ragazzi e ragazze che sono interessati a seguirci o proporre le loro cose, poi li mettiamo in contatto fra di loro. È un programma che poi collateralmente ha creato questa sinergia tramite appunto il web, Facebook, le nostre risposte, di mettere in contatto anche le persone tra di loro, sì, le persone tra di loro, le case editrici piccole possono promuoversi ad esempio sul nostro sito, su Facebook, e questo in modo tale che non sia soltanto un programma, ma sia veramente una sorta di movimento che porta la passione anche attraverso tutte le possibilità oggettive che ci sono. Sì, questo forse è la nuova frontiera della TV, come già si è visto un po' con alcuni canali, magari sul digitale o sulla telefonia e l'interattività, insomma, una frontiera. Sì, esattamente. Poi siamo su un campo che in effetti ci fa capire quanto in Italia sia poco conosciuto proprio l'ambito letterario. Parliamo di un paese dove si legge purtroppo pochissimo, ma soprattutto chi legge ha una conoscenza molto limitata delle proposte editoriali, delle proposte italiane, eccetera. E infatti quando riceviamo delle email, la cosa che ci dicono più spesso è che sono sorpresi dalla varietà umana e letteraria che c'è nel nostro paese, per cui magari uno ha voglia di leggere, però cioè, se nessuno gli dice che cosa esiste o non ha tempo per andare a una libreria, eccetera, questo può diventare appunto anche uno strumento, tra virgolette, di conoscenza, anche divertente. Beh sì, è un lavoro molto importante quello che tu fai, e c'è da sperare che, diciamo, in questa nuova TV che si allarga nel nostro paese ci siano anche esperienze varie che si possono parlare sempre sullo stesso tema. Sul digitale terrestre ci sono altre esperienze simili, altri tuoi colleghi che fanno qualcosa? Io conosco solo la Sette che da questo piccolissimo spazio, che sono due minuti poi. Sì, esatto, so che c'è sulla 7, poi su Sky l'unica cosa che c'è, so che la rep è la compagnia del libro di Saverio Simonelli, che è anche quello uno spazio dedicato ai libri, è quello molto, anche quello vario, e loro hanno comunque un ambito diverso dal nostro, cioè magari vanno sugli eventi, sui libri, con un approccio più diverso, letterario, diciamo. Noi non vogliamo fare né critica né approfondimenti, che di un certo tipo, cioè vogliamo proprio lasciare la parola all'esperienza della letteratura, quindi cerchiamo di far capire quello, che la letteratura è un'esperienza umana, perché ripeto sempre umana, perché non voglio legare proprio il concetto di libro e cultura come una fase di solo riflessione o soltanto creazione di cultura, perché sennò è bello pensare che il libro sia proprio anche una fase di apprezzamento di chi ci sta dietro, di tutti i lavoratori. Ci sono un sacco di ragazzi che fanno dei progetti letterari bellissimi che non sono supportati da nessuno e hanno bisogno di spazio. Sì, noi vedendo come radio e poi nelle attività come eventi, questo è sicuramente noto, come non ci sia una comunicazione tra le istituzioni, tra chi fa e magari ha la passione di fare. Io mi sposterei sulla tua esperienza personale di scrittore, visto che tu hai pubblicato recentemente alcuni libri, e quindi questo è positivo, perché sicuramente come altri, come noi in parte, hai bene la percezione di quello che succede in ambito letterario. Il tuo ultimo libro si chiama Alex fa due passi, e di cosa parla? Alex fa due passi è la storia di un ragazzo che praticamente va tutti i giorni al lavoro in una anonima azienda di città e non fa altro che timbrare il cartellino di una quotidianità mai interpellata, finché un giorno un evento assolutamente banale come una nevicata lo spinge a saltare l'appuntamento con la mensa e con i suoi colleghi per uscire a fare due passi, e si tramuta questo in un viaggio interiore, oltre che in un viaggio attraverso la città. Ogni capitolo è un quartiere, una strada che lui vede, che lui attraversa camminando, dove incontra tutti quei volti che naturalmente appartengono all'anonimato e che si trasformano invece in personaggi molto molto sfaccettati e tridimensionali, attraverso un po' quello che mi piace molto come stile, che è il realismo magico, quindi personaggi che abbiano qualità sicuramente oggettive, sociali e umane, a quelle che sono anche diciamo qualità fantastiche che ricordano Marquez, che ricordano Calvino, il Paese delle Meraviglie, ed è un percorso che Alex fa accrescendo quella che è la sua limitatissima percezione della città in cui è sempre vissuto, in cui è sempre lavorato, attraverso appunto quella che è una giornata intera che lo porterà anche a scavarsi, anche a trovare dei tormenti, dei dolori, grazie a questi personaggi che man mano lui incontra, che man mano gli cambiano la visuale che ha della sua quotidianità. Mm-hmm. Il tuo libro quando è uscito? Questo... È uscito praticamente all'inizio di dicembre. Ah, quindi è recente, penso starai facendo... Sì, lo stiamo facendo. Promuovendo. È pubblicato da Las Vegas Edizioni, che è di Torino, tra l'altro. È una specie indipendente, appunto, di Torino, che è una delle, appunto, realtà piccole indipendenti della cultura italiana che si sta muovendo attraverso, appunto, la letteratura dei ragazzi, dei giovani, per cui è una bellissima realtà. Sentiamo ora Andrea Marrone, che segue alcune rubriche di libri, fra cui quella più nota su Vero e quella sul cittadino canadese. Tu fai un'attività di giornalismo e di critica su dei quotidiani che sono comunque nazional popolari, diciamo, settimanali o comunque hanno un pubblico. È vero, tiro 500.000 copie. Sì, sono di ampia diffusione, ma la cosa interessante che secondo me va a smuovere anche se vuoi un pregiudizio che un certo, diciamo, canale, un certo, per così dire, pubblico non si interessi di libri. Ma che non è assolutamente vero. Infatti, è quello che volevo appunto discutere con te. Perché la presenza di una pagina dedicata ai libri in quotidiani che potrebbero vagamente assomigliare a un tabloide è una cosa su cui interrogarsi, non trovi? Sì, però diciamo che fa un po' parte anche questo di un certo tipo di cultura popolare, perché ovviamente il taglio dei libri che io inserisco nella mia rubrica fu un settimanale che in effetti è un tabloid, perché sì, poi si parla, soprattutto la notizia è virata su quel vita dei VIP, esattamente, statistica, sì, eccetera eccetera, quindi lo possiamo sicuramente definire un tabloid, però insomma io cerco di mediare inserendo dei libri che hanno anche possono avere un interesse molto più vasto di pubblicazioni, sì, specialistiche, insomma, cerco il romanzo d'avventura o d'amore, libri manuali di cucina, di ricetta, insomma tutto quello che fa parte un po' della nostra cultura un po' più spicciola, diciamo. Non si pretende di fare alta cultura, però comunque inseriamo anche dei titoli che poi in effetti lo sono di alta cultura, però in un ambito che diventa, dove diventa tutto più accettabile e più facile da digerire. Che tipo di risposta hai da parte dei lettori? È abbastanza difficile da calibrare quella da parte dei lettori. Diciamo che tutti i testi io poi li giro sul mio sito, che è www.andreamarrone.com. Da lì invece ricevo dei feedback, sì, perché con l'email è molto più immediato. Ho ricevuto anche delle lettere tramite la direzione di Vero, però insomma non direi che siano significative. Okay. Gli approfondimenti in genere sono sul sito. Ok, tu pubblichi la tua rubrica sul settimanale Vero e su altre riviste o soprattutto su Vero? Adesso non ricordo. Soprattutto su Vero, poi su un giornale canadese, sì, che è il... Scusami un secondo. Ma di lingua italiana, sì, è un'operazione molto simpatica perché si rivolge praticamente a tutta quella grossa fetta di italianità che è all'estero, che è composta sia da emigranti italiani di recente emigrazione che anche da figli di emigranti di antica, sì, emigrazione che vogliono ottenere un contatto culturale, sì, con l'Italia e con la lingua italiana. Allora esiste questo giornale che si chiama Il Cittadino Canadese, sì, è un giornale storico, c'è dal 1941, e nell'ambito di questo giornale io ho una rubrica libri a cui tengo particolarmente perché, avendo vissuto anch'io per molti anni all'estero, ah, so cosa vuol dire avere un contatto con la Madrid. Sì, infatti noi trasmettiamo a Bruxelles e gli italiani di Bruxelles ci ascoltano. Bravissimo, esattamente la stessa cosa. Facciamo un lavoro tra l'Italia, appunto, e il Belgio, mettendo in comunicazione, diciamo, realtà forse più vicine, perché chiaramente ormai siamo in Europa, però è interessante questo tipo di lavoro. E qui sul questo giornale canadese fai un altro tipo di lavoro, di scelta? diciamo che la scelta sui giornali canadesi riguarda di più titoli prettamente italiani di, o comunque libri che hanno un interesse soprattutto per quanto riguarda l'Italia. Però volevo un po' tornare sul tuo discorso. Sì, su quello dei media, forse questo poi lo... dei media, perché è falso, è sbagliato pensare che la cultura debba essere riservata a riviste patinate, con un target altissimo. Io credo che la cultura sia una cosa che esiste anche sulla strada, a livello proprio minimo, sì. e allora bisogna, minimo non per disprezzarlo, ma per indicare qualcosa di non così codificato. Io ho per esempio degli scambi di mail con delle signore che sono delle casalinghe, insomma, casalinghe colte, con una loro cultura, ma che magari non hanno avuto una scolarizzazione altissima, però leggono, si interessano e dibattono sulle mie. E secondo te questi tabloid hanno anche una funzione, per così dire, per quanto possibile educativa, oppure no? Beh, dipende da... Cioè, riescono a tirar fuori, secondo te, un qualcosa anche di positivo o sono mero consumo? Io ho visto due fasi. Uh-huh. Una fase in cui era proprio il tabloid all'inglese, dove francamente non vedevo né degli intenti né dei risultati educativi. Oggi mi sembra che i giornali, anche questi giornali tra virgolette scandalistici, abbiano subito un'evoluzione che riguarda le rubriche. Poi ci sono rubriche di bon ton, ci sono rubriche di salute, ci sono rubriche di viaggi, cioè al di là dell'informazione, il tizio ha messo le corna alla moglie con la tizia, c'è anche tutta una serie di indicazioni su quello che è giusto e sbagliato a fare. In questo senso viene fatta dell'educazione. E poi comunque tu sai che la nostra cultura dipende al 90% da quello che vediamo e sentiamo in televisione. E il giornale scandalistico, il tabloid, il settimanale di oggi è una sorta di fotocopia hard della televisione, quindi il linguaggio è quello, le intenzioni sono quelle, è un diverso modo di fare cultura, però comunque si fa della cultura. Non è certo la cultura accademica, però comunque... Diciamo che si possono magari ricavare, come nel tuo caso, degli spazi di miglioramento, di crescita anche all'interno di un mondo che magari molti intellettuali schifano e odiano, insomma. Sì, ma sai, schifano e odiano, poi però quando li chiamano in televisione o gli fanno un'intervista su queste settimanali arrivano di corsa, certo. Perché sanno che c'è una platea molto più perché alta. Perché c'è anche un po' magari di ipocrisia nel rapporto con le masse, forse. Tu sai che l'intellettuale italiano tradizionalmente, storicamente, è sempre stato un elitario, cioè una persona che si rintanava nei suoi circoli culturali molto ristretti e non aveva interazione con le masse. Il fenomeno culturale in Italia non è mai stato un fenomeno di massa, ma è sempre stato un fenomeno di elite, a differenza di altri paesi come Francia e l'Inghilterra, dove tra virgolette la cultura è sempre stata più democratica e aperta al popolo. Diciamo che al di là però di qualche raro caso di veramente personaggi scostanti, io ho intervistato moltissimi scrittori, ho scritto io dei libri, ho intervistato moltissimi scrittori molto più bravi, più intelligenti di me, e devo dirti che questa chiusura così non totale, c'è. In realtà non c'è, anzi c'è abbastanza interesse per quello che succede al di fuori dei ristrettissimi circoli culturali. Quindi insomma io penso che la situazione, guarda, è strana in Italia, perché sembra sempre peggio di quello che in realtà è. Io credo che sia un po' meglio, che ci sia ci siano delle aperture comunque, secondo te. Ma certo, poi sai, la cultura come il benessere si diffonde. onde, magari si abbassa di livello, quindi non abbiamo quelle punte altissime, però comunque è più diffusa, è più vasta. Oggi come oggi una casalinga siciliana ne sa quanto una maestra d'asilo. Molti laureati sicuramente, sì. Ondivago è presente al Salone del Libro. Seguirà sabato 15 maggio alle 17.30 la presentazione del libro Il pianeta blu Myosotis di Anna Raffaella Farao, che si trova presso lo stand A54 di Asero & Partner, agenzia letteraria, che si è collocata nello spazio incubatore. Il libro sarà presente con noi anche domenica 16 al Salone Off della circoscrizione 3, ore 15, area pedonale Grattacielo Lancia, via Caraglio. Per tutti coloro che vogliono contattare Ondivago durante il salone e raccontare libri e letture, il telefono è 334-16-96-877. Ricordiamo più 39 per chi chiama dall'estero. Con queste informazioni sul Salone del Libro, vi salutiamo e vi rimandiamo alle prossime ondivagazioni. Ondivago, parcours ondoyant travers la littérature, les arts et la culture. Un programme conçu et présenté par Max Ponce avec la collaboration de Daniela Terrier et Pietro Pedone, mixage Alessandro Gianotti, production du Club du Livre de Bruxelles et Poésie à Total et de Turin. Info ondivago.blogspot.com, email ondivagoradio@gmail.com.